dalla finestra di casa mia vedo il mondo passare, scie di aeroplani che vanno via, gente che prova a volare. Un altro cambio di stagione, la mia estate che tarda ad arrivare. Dalla finestra di casa mia vedo le mogli ingrassare, figli cresciuti e la nostalgia di chi non può più giocare. E mille passi sulla strada di chi partirà, di chi è tornato già.